Roland Boer, direttore della 43esima edizione del Cantiere Internazionale d'Arte tra Montepulciano e Valdichiana Senese dal 12 al 29 luglio. Roland, ben trovato. Grazie, buongiorno. Visto che ha una lunga tradizione il Cantiere Internazionale d'Arte, come ce lo presenti? Sì, abbiamo sotto la tematica di quest'anno Vita, Morte, Meraviglie, in programmazione una sessantina di eventi, 60 eventi in 16 giorni, quindi una grande quantità e varietà di eventi di ogni tipo. Per la prima volta della storia del cantiere apriamo ufficialmente con una produzione fuori in Montepulciano nel castello o presso il castello di Sarteano, una produzione della regista e scrittrice Laura Fattini titolata Nelle scarpe di Giuffa con musiche nuove di Sara Ross e la nuova Accademia degli Ari Chianti. La produzione apre anche perché è assolutamente significativa per il nostro modo di lavorare e collaborare al cantiere. La nuova Accademia degli Arischianti è ben presente e abbiamo sempre avuto dei rapporti anche nel senso di collaborazione, ma per la prima volta questa produzione fa parte integrante della programmazione generale. Voglio solo dare un paio di punti di proprio questa produzione perché è molto significativa anche per la tematica. Sì. Giuffa, il protagonista di questa produzione, è un carattere, un personaggio di tante tante storie intorno al bacino mediterraneo. E questo personaggio Giuffa originalmente viene dalla Turchia, un pazzo, e poi nelle storie durante i secoli cambia il suo carattere, quindi è una volta anche il sciocco, il saggio di nuovo, uno che prova di adattarsi a nuove condizioni e poi sviluppa quasi l'arte della sopravvivenza. E questo vogliamo anche raccontare come un aspetto della nostra produzione, che tramite i viaggi o anche gli spostamenti, i traslochi sforzati come le fughe, siamo tutti noi forzati a trovare, ritrovare noi stessi in nuove condizioni. E forse anche prendere una maschera o sviluppare un'altra sfaccettatura del nostro carattere o del nostro personaggio. Per poi sopravvivere e continuare un'altra storia. E meravigliosamente in questa produzione saranno coinvolti anche rifugiati, migranti dall'Africa che in questa produzione si preoccupano dei costumi, ad Sì, esempio. sì, sì. Quindi un bel esempio per aprire questa edizione. Sì, e poi tutta la programmazione, ma mi dica lei di cui vogliamo poi parlare. Rispetto a questo titolo, Vita, Morte, Meraviglie, la scelta come mai è stata questa? Sì, allora, la detta o la frase idiomatica conoscere qualcuno, vita, morte, miracoli, mi era conosciuto e ho provato di modificare questa frase anche perché miracoli mi sembrava meno poetico rispetto alla parola meravigliosa, meraviglie. Sì. Sotto questa linea di guida, sotto questa tematica, vogliamo chiederci chi sono io, chi sei tu, ci conosciamo davvero quale ruolo dobbiamo tutti noi recitare in questo grande teatro del mondo? Sì. Così abbiamo tanti aspetti che poi si sviluppano, saranno sviluppati durante il cantiere. La domanda è la autoconsapevolezza, del conoscere se stesso, per poi essere capace di conoscere e riconoscere l'altro. E anche capirsi come un elemento, un un elemento di una comunità più grande. L'aspetto del giocare, recitare un ruolo, vuol dire prendere proprio un'altra maschera, ora una facciata. Sono veramente io stesso, sono sincero, sono integro o faccio solo finta? Sì. Queste sono le domande e questo ci guida alla domanda della identità e la domanda di che cosa dipende la identità delle persone con cui sto insieme o del paese dove mi trovo, il luogo, eccetera, eccetera. Sì. Per esempio, la grande produzione opera lirica in teatro di questo anno sarà L'impresario in angustie di Cimarosa, una coproduzione tra l'orchestra poliziana, un team creativo professionisti sotto la guida della regista Caterina Pantelivorovici e giovani cantanti del Conservatorio di Firenze e una vincitrice del concorso Giulio Neri. In questo brano, L'impresario in angustie, siamo confrontati con tutte queste domande perché il teatro stesso, la forma dell'opera, è quasi l'oggetto superiore di questa cosa. Si tratta di una compagnia di teatro, quindi teatro sopra il teatro, dove c'è un compositore, un librettista, un impresario che provano a scrivere una nuova opera, i cantanti gelosi e egocentrici fanno i loro commenti. Alla fine questa opera non è mai finita e non sarà eseguita, l'impresario se ne va per ragioni economici e tutta l'opera è quasi a un anticlimax e rimane anche un sentimento che va oltre alla ironia, verso il sarcasmo e verso anche veramente un colpo che ci fa riflettere tante domande. Quanti eventi saranno e in quali luoghi? 400 artisti, professionisti e non professionisti, sicuramente quindi tutti quanti, 400, 8 comuni e una ventina di location. E i riferimenti web? C'è un sito internet, una pagina Facebook? Sì, ci sono. Per questi riferimenti mi piacerebbe passare la linea a Alessio Biancucci perché si preoccupa veramente di queste cose. Va bene, allora un grazie. Grazie Eccoci, chiudiamo con a lei. Ciao. tutti i riferimenti web per la programmazione. Sì, www.fondazionecantiere.it. Allora, ricordiamo la 43ª edizione del Cantiere Internazionale d'Arte tra Montepulciano e Valdichiana Senese dal 12 al 29 luglio. Un ringraziamento e un saluto a Roland Boer e ai suoi collaboratori. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie.